Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata, cara Giulia. Sapessi allora, come mi sono divertita a vedere le cose. Ho imparato un sacco di cose sull'impeachment. Allora, raccontacene qualcuna. Vai. No, come sapete, insomma, Trump, l'hai ricordato tu nei titoli, è impegnato a Davos. Però intanto inizia la procedura di impeachment in Senato, che è un vero e proprio processo a porte chiuse. E naturalmente ne parlano tutti i giornali, anche perché Trump sta premendo con i suoi legali, che sono di altissimo livello. C'è l'ex procuratore Ken Starr, c'è Alan Dershowitz, famoso anche perché è protagonista del film Il caso von Bulow, che è ispirata a una storia vera. E quindi Trump sta premendo perché il processo sia il più breve possibile. Però intanto ai senatori è stato ricordato quali sono i loro obblighi. Sentiamo questo breve audio, perché veramente dovranno stare molto attenti. Ziegler doesn't believe it's too much to ask of a senator to sit still, be quiet and refrain from reading or texting. Chi è che parla, Giulia? Qui c'è il giornalista della CNN che riassume queste regole. Sì. Quindi dovranno sit still, stare in silenzio assoluto, be quiet, non parlare tra di loro e non usare i telefoni cellulari. E come in moltissime scuole americane hanno fatto vedere alla televisione questo armadietto con 100 caselline dove dovranno essere riposti i cellulari. Ma la cosa incredibile, ed era già successo nella precedente procedura di impeachment, quella che riguardò Bill Clinton, se queste regole vengono violate, in teoria c'è l'imprisonment, cioè la prigione. Si finisce in galera, penso. Sì. E tra l'altro non si possono neanche alzare, quindi, diceva un commentatore in modo molto serio, per alcuni senatori che hanno più di 80 anni questo sarà un problema molto, molto serio, perché dovranno probabilmente anche alcuni di essi indossare un catetere, perché se non si possono alzare e si aspettano sedute molto lunghe, si dovrà anche fare questo, perché non avranno una deroga a poter andare in bagno, perché chissà cosa potrebbero recuperare il cellulare, fare chissà cosa in queste brevi assenze. Quindi insomma, regole molto precise che non sono assolutamente state cambiate, benché si sia nell'era digitale, e quindi insomma vedremo se ci saranno delle violazioni. Oh, allora, so che tu dai giornali di oggi c'è anche delle foto che riguardano per esempio il raduno in Virginia. Cos'è accaduto in Virginia? Sì, faceva Giulia molta paura questo raduno davanti al state capital, cioè al municipio della capitale della Virginia, perché era dei gun activist, perché il governatore della Virginia, democratico, sta cercando di introdurre, e non è facile, delle leggi che rendano molto più difficile acquistare delle armi. Naturalmente questo è un tema, lo sapete, attualissimo negli Stati Uniti, dove sotto la presidenza Trump, che sia un caso o che non lo sia, è un dato di fatto, sono aumentati i mass shootings, quindi le persone, alcune parti della società americana, chiedono queste leggi sul gun control. Si temeva che ci sarebbero stati disordini, forse anche che violenze. Invece tutti i militanti, per la stragrande maggioranza uomini, si sono presentati con le loro armi, i loro giubbotti pieni di granate e altre piccole armi, però è andato tutto bene. Il tema è che questo stato, la Virginia, è, scrive il New York Times, uno dei swing states, cioè non si sa se avrà una maggioranza democratica o repubblicana, e quindi i democratici si muovono sostanzialmente con una certa cautela, perché se questo voto, questa legge dovesse passare prima delle elezioni, potrebbe spostare parecchi voti. Allora, i prossimi argomenti riguardano due persone, tutte e due secondo me tristi in questo momento. Greta, che mi è apparsa sconcertata a Davos, ma anche il principe Harry, che insomma, dopo la sua confessione è venuto fuori insomma un quadro di mestizia. Sì. Da chi vuoi cominciare? Ma guarda, forse dal principe Harry, che viene trattato bene, molto, o molto bene o molto male dalla stampa britannica. L'Independent, per esempio, titola, mettendo una foto di Harry che ieri ha incontrato Boris Johnson in questo UK Africa Investment Summit a Londra, dice: finalmente Harry può spread his wings, può aprire le sue ali e volare libero. Perché però nella foto è solo Boris Johnson. Esatto. Una delle sue solite pose, diciamo così, aeree e così. Mentre il Guardian oggi decide di sorvolare sulla vicenda Harry, invece molto duro come sempre il Daily Telegraph, che torna sulla questione dei finanziamenti, e poi divertente il Daily Mail, che invece dedica la prima pagina a Peter Phillips, che è un altro nipote della regina, il figlio di sua figlia Anna e di Mark Phillips, è del 1977, quindi anche lui è abbastanza giovane, anche se è il più vecchio dei nipoti della regina, e pare che lui in Cina si sia già prestato a molte pubblicità, dove naturalmente si presenta come il nipote della regina. Questa è una cosa che non potrebbe fare, e quindi insomma si parla tanto del povero Harry e di come non dovrà assolutamente sfruttare il suo status di principe o ex principe. In realtà c'è un altro membro della famiglia reale che non si fa proprio problemi. Allora, Greta. Sentiamo Greta, dai. Sì, introduciamo Davos così. The climate and environment is a hot topic right now. And lots thanks to young people. Perché ha partecipato a questa tavola rotonda organizzata dal settimanale Time, e naturalmente tutti i presenti le hanno fatto i complimenti dicendo grazie a te, si parla di clima, e lei ha detto è vero, è un hot topic, cioè un tema caldo. E tra l'altro vestita con una felpa rosa, senza naturalmente un filo di trucco, con la sua coda, sembrava una piccola elfa, una tenerezza incredibile, perché poi una grande calma, però subito dopo dice sì, però va bene, ok, tutti ne parlano, ma di fatto da quando io ho iniziato a fare i miei Fridays for Future, nonostante le dimostrazioni di massa di tanti giovani come me, il livello di emissioni di CO2 non è diminuito di un chilo in tutti questi mesi. E quindi dice in realtà spero che qui a Davos si prendano dei passi concreti. Un passo concreto l'ha fatto la Spagna, e il País oggi titola in prima pagina che Sánchez dichiarerà ufficialmente, come del resto ha fatto il Regno Unito ancora quando c'era Theresa May come premier, che il pianeta vive in uno stato di emergenza climatica, e che quindi tutti i governi, quello spagnolo naturalmente in primis, prenderà delle misure concrete. Giulia, c'è un messaggio per te. Fake news, fuori dati degli aumenti di shootings con Trump. Cioè questo ascoltatore contesta che con Trump domani glieli diamo, prometto, adesso non li so a memoria, ma domani glieli do. Beh, insomma, di fatto Trump difende l'uso delle armi, dei democratici invece vorrebbero limitarlo. Queste sono posizioni molto chiare, anche non è perché che la NRA, la National Rifle Association, che è l'associazione dei produttori di armi, è tra i suoi più grandi finanziatori, quindi in modo molto trasparente gli elettori lo sanno, Trump lo dichiara, e quindi anche la sua posizione, se vogliamo, coerente, non vuole limitare l'uso delle armi. Benissimo, grazie Giulia, ci risentiamo domani con te, anche con Effetto Giorno. Jacopo De Franchi in redazione, Roberta Frisani in regia, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo per l'aggiornamento del GR del 14, a tra poco.